misericordia divina, felicità estrema, danzare in tuo onore e librarsi nell'aria. Profumo d'amore e dolcezza, bontà stupore. Profumo d'amore e dolcezza, bontà stupore. Si avvolge nel tuo sapere, dolce ritorno nell'oasi dell'essere, sogno ed estasi, risveglio realtà. Profumo d'amore e dolcezza, bontà stupore. Profumo d'amore e dolcezza, bontà stupore. Profumo d'amore dolce.